non sanno di che parlare i giornali, eh. È lunedì 16 maggio e siamo qui, allora, i titoli, il Sole 24 Ore, ricchi e poveri d'Europa, ecco la mappa dei redditi e il confronto tra i contribuenti italiani e quelli di Francia, Spagna, Germania, Olanda e Regno Unito. E scopriamo dunque sul Sole 24 Ore se siamo più ricchi, se siamo più poveri. Un bel confronto europeo, lo vedremo più avanti. Il Corriere della Sera apre sulla Libia a rischio. L'Italia rimanda l'invio di soldati. La Farnesina, cioè il Ministero degli Esteri, dice: puntiamo a stabilizzare il paese. Insomma, non andranno per il momento soldati italiani in Libia. Il Messaggero: statali, aumenti per i salari bassi. Le direttive del ministro Madia per il contratto, 300 milioni da distribuire, tra chi guadagna meno. Per Repubblica invece il voto in due giornate anche al referendum. Letta dice: non ha senso, sapete che si voterà in due giornate amministrative, e per molti è un precedente per mettere il voto su due giorni anche al referendum di ottobre, la vera partita politica secondo Renzi. La Stampa: dall'Unione Europea arriva uno sconto da 14 miliardi, la lettera di Bruxelles, sciogliete i nodi su IVA e deficit, arriverà in settimana. Per il Giornale: terrorismo, siamo nel pallone, senza difese. L'Unità invece attacca Grillo e Boris Johnson, li mette insieme, il sindaco uscente di Londra e Beppe Grillo, per le frasi Grillo sul sindaco di Londra: quando si farà saltare in aria? E mentre Boris Johnson: l'Unione Europea ha gli stessi obiettivi di Hitler. Il titolo dell'Unità di prima pagina è Spregiudicati. Mentre Libero: ecco tutti i bond bancari, guardate se siete a rischio, l'elenco di tutti i subordinati. Comunque, voglio partire proprio da questo allarme terrorismo, ma allora, ma che è successo a Manchester, allo stadio, dove hanno trovato uno zaino sospetto, hanno fatto evacuare tutto il pubblico, hanno sospeso la partita Manchester United Bournemouth. E che succede? Era tutta una farloccaggine. No, vabbè. È lo psicoterrorismo. Questo ormai siamo a questi livelli. In realtà è stato un errore. È stato trovato un pacco sospetto con una bombola dentro e un cellulare. Era un congegno lasciato durante un'esercitazione antiterrorismo e dimenticato poi una volta che l'esercitazione antiterrorismo è finita. E quindi ha generato giustamente il panico. 75.000 tifosi evacuati dall'Old Trafford, il sindaco che dice: è inaccettabile, ora qualcuno deve pagare. Chissà se qualcuno pagherà, sta di fatto che fa capire i tempi in cui viviamo, quelli in cui ci sono ogni tanto gli attentati e quando non ci sono basta una borsa dimenticata da una evacuazione, un'esercitazione antiterrorismo, poi lasciata lì, a generare questo terrore vero e proprio. Purtroppo sono i tempi a cui dobbiamo abituarci, e tra un mese ci sono i campionati europei di calcio in Francia, tra l'altro, ricordiamo questo. Allora, voglio totalmente saltare dalla Gran Bretagna all'Italia a questa intervista di cronaca che trovate su Libero, perché è un'intervista che ci proietta in uno degli episodi di cronaca nera che più ha anche interessato le persone, vale a dire gli agguati con l'acido a Milano. Perché ve ne parlo? Perché Giacomo Amadori di Libero ha intervistato, tramite l'avvocato ovviamente, Alex Butcher. Sono due pagine di intervista, pagina 14 e 15 di Libero. Parla colui che è stato condannato per le aggressioni con l'acido, i danni all'occhio e all'orecchio di Stefano Savi, oltre che la tentata evirazione di Antonio Margarito e l'aggressione fallita a Giuliano Carparelli. Sono domande ovviamente attraverso l'avvocato, visto che Butcher si trova in carcere. E parla di lui, il titolo dell'intervista è questa: sono un deviato sessuale ma con l'acido non c'entro. Dice di sé Alex Boettcher: non mi riconosco in nessun reato. Quanto ai difetti che ho, sono consapevole di essere stato una persona superficiale, se vuole anche deviato nella vita sessuale. Ritengo di aver sbagliato alcune amicizie e compagne. Tuttavia sono certo che tali questioni contino sul piano morale, ma non su quello penale. Riguardo a Martina Levato, la donna con cui ha fatto un figlio, l'ho amata più di me stesso, tra noi non c'era sadomasochismo né violenza gratuita, bensì condivisione, piacere, unione sentimentale. Le nostre pratiche sessuali, seppure inquadrabili come deviate, non sono mai sfociate in azioni criminali. Poi però l'accusa di avere a lei di avere cambiato versione, di avere mentito, insomma, diciamo, adesso dice: mi aspettavo anche delle scuse da lei. Parla anche di tutte le immagini che vedono prese dal telefonino e che parlano di tatuaggi, lesioni, incisioni nella pelle. Riguardando quelle immagini quasi mi vergogno, dice Boettcher. Tuttavia in questo caso sottolineo che, seppure disgustose, non costituiscono un crimine. Il rapporto tra me e Martina è stato caratterizzato da scelte sessuali sicuramente atipiche e forse deviate, ma non siamo gli unici. E insisto, non hanno nessuna connessione con i gravi fatti che ha riguardato quei poveri ragazzi. Poi parla un po' anche delle sue frasi, quando nelle chat dice che si riteneva il diavolo, quando usava sprezzanti toni nei confronti delle donne, soprattutto le donne thailandesi definite razza inferiore di babbuini al cospetto di Dio. E dice: sono tutte frasi, quella del diavolo era... Era un ragazzo che faceva delle boutade goliardiche. Riguardo alle frasi insultanti, dice, sono frasi di insulse chat e nulla più. Erano solo stupidaggini, nulla di reale. A un certo punto, in questa lunga intervista di due pagine, mi colpisce anche alla domanda: lei politicamente da che parte sta? Vabbè, dice, ho votato Berlusconi l'ultima volta, ma soprattutto in Lombardia sono stato candidato con Giulio Tremonti, cioè ha fatto pure una candidatura alle politiche, non so quali elezioni, Alex Boettcher. E vabbè, chiede scusa alle vittime, ma dice: io non c'entro nulla, l'unica ragione di vita ora è mio figlio. Due pagine di intervista ad Alex Boettcher, le trovate su Libero. Oh, questa è una storia che mi ha molto colpito. Ieri la leggevo sui giornali e veramente avevo un groppo in gola nel leggerlo, perché è una storia drammatica, dalla quale però c'è un gesto di una famiglia, di un bambino che purtroppo non c'è più, è morto, aveva 7 anni, e della sua famiglia, un gesto che è un gesto di bene, un gesto di bontà che si sta, scrive il giorno, anche diffondendo tra altre persone. Il testamento del piccolo Giovanni, gara di solidarietà da tutta Italia. È la storia della famiglia Ignaccolo, del piccolo Giovanni Ignaccolo, che dopo una brutta caduta dalle scale e lunghe traversie a 7 anni non ce l'ha fatta ed è morto. E che cosa è successo? Una settimana dopo la morte, i genitori di Giovanni si presentano all'ospedale Piero Bonomo, al direttore sanitario Piero Bonomo del Maggiore, dell'ospedale di Ragusa, in provincia di Ragusa, e l'ospedale è l'ospedale di Modica, e dicono: ecco qua, questo era l'ultimo volere del nostro bambino di 7 anni, e consegnano 900 euro, cioè tutti i risparmi di questo bambino, sia nel salvadanaio e poi anche ai funerali di questo bambino. I genitori hanno detto: non vogliamo fiori, ma semmai riempite il salvadanaio del nostro piccolo, e perché noi vorremmo dare tutti questi soldi all'ospedale di Modica dove si sono presi cura di lui. Ed ecco allora la raccolta fondi per l'ospedale oggi al via, scrive il giorno. Telefonano anche decine di lettori. Perché quello che ha fatto Giovanni Ignaccolo, questo bambino, attraverso anche i suoi genitori, ora si sta diffondendo come gesto. Lui ha dato 900 euro, questi 900 euro sono per voi, ha detto, consegnando i risparmi del piccolo con questa sorta di testamento morale che ha commosso certamente l'Italia. E oggi il giorno dice e racconta, dedicando una pagina a questo, ci sono altre persone che vorrebbero in qualche modo, anche dopo, riempire ulteriormente questo salvadanaio di questo piccolo. E mi sembrava una bella notizia da volervi raccontare e che trovate oggi su Il Giorno. Mentre, che succede se rubi un pacchettino di Pocket Coffee da 1,59 euro? È successo a Sondrio, dunque in Lombardia, e Luigi Ferrarella racconta oggi sul Corriere della Sera che quel cioccolatino da 1,59 euro è costato una multa di 7.500 euro a un povero, come dire, vabbè, a un ladro, ecco, cioè il cioccolatino più caro del mondo. Perché un indagato di 33 anni è finito fino alla Cassazione vedendosi contestare il reato di furto, appesantito dall'aggravante di aver commesso il fatto su cosa pubblica, su cosa esposta alla pubblica fede, perché era lì proprio la cassa. Ha compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a impossessarsi a scopo di profitto di una confezione di Pocket Coffee dal valore di 1,59 euro dal supermercato. E dunque, furto, pena, 3 mesi e 162 euro di multa, poi abbassata di un terzo per la concessione delle attenuanti generiche, 2 mesi e 108 euro, poi il PM l'ha ridotta sino a metà del minimo della pena edittale, insomma si è scesi fino a 30 giorni di reclusione che possono essere convertiti in pena pecuniaria al prezzo di 250 euro al giorno per detenzione. E quindi risultato 7.500 euro di pena detentiva convertita in pecuniaria più 59 euro di multa per avere rubato un cioccolatino da 1,59 euro. Succede sul Corriere della Sera, lo racconta Luigi Ferrarella a Sondrio. Va bene, eccoci qua. Siamo al momento dell'articolo che mi fa pinzare della giornata per iniziare questo lunedì, questa settimana. Magari siete stressati. Magari andate al lavoro sebbene siate stressati, magari siete dei dipendenti del Comune di Roma, stressati, ma se siete dipendenti del Comune di Roma stressati, tranquilli, tranquilli, perché già la scorsa settimana avevano detto che arrivavano, c'erano i corsi per curare lo stress, ma non bastano. E allora il Messaggero racconta, pagina 27, che il Campidoglio asseconda le singolari lamentele dei dipendenti affaticati dal lavoro e prevede l'arruolamento di nuovo personale esperto. Esperto di che? Beh, per fare stimolanti laboratori di rimotivazione. Rimotivazione, neanche motivazione, rimotivazione. Bisogna resettare alcuni dipendenti comunali e rimotivarli. Fare corsi distensivi di bioenergetica per respirare meglio quando magari ti arriva uno a chiedere allo sportello qualcosa e trovare il giusto equilibrio tra il corpo e la mente. Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. Alessandro Milan, il brocchi dell'informazione. E Ale, va bene, anche questo campionato è finito, fortunatamente. Allora vi sento però un po' dormienti. Al 349-238-6666 potete mandare i vostri messaggi, i vostri saluti, i vostri messaggi audio, soprattutto visto che è anche un numero per messaggi WhatsApp. Oppure gli sms, dite quello che volete, c'è Carmelo Lauricella in regia, potete dirgli quello che volete, è un bel ragazzo, c'è Lorenzo Nespoli in redazione, potete sfogarvi su di lui, è lì pronto, ha l'indennità da muro di gomma per i vostri insulti del lunedì mattina e va bene, potete insultare anche me oppure starmi vicino in questo momento alle 7.37 del mattino. Continuiamo a leggere i giornali. E allora dobbiamo tuffarci nel tema delle amministrative, dove succederà oggi, verrà deciso per decreto del ministro dell'interno di aumentare a 2 giorni il voto domenica e lunedì per le amministrative del 5 giugno, dove si vota e quindi si voterà anche lunedì. E non solo, attenzione, perché il ministro dell'interno Alfano ieri era all'arena di Giletti e ha detto che questa estensione di 2 giorni per le amministrative non è escluso che servirà anche e verrà applicata per il voto al referendum confermativo di ottobre, quello in cui gli italiani decideranno se confermare o no la riforma costituzionale. Allora, voto in 2 giorni anche sulla carta, questo è il titolo, cioè paradossalmente è più importante e ci sarà una discussione sul voto di 2 giorni sul referendum più che sulle amministrative. Oggi con un decreto legge, scrive Repubblica pagina 8, il governo allungherà la scadenza elettorale delle comunali aprendo i seggi anche lunedì. Ma Alfano guarda già avanti e immagina il raddoppio anche per il referendum costituzionale di ottobre. Mi sembra giusto che il quesito d'autunno, che può realizzare la più grande riforma dopo la Costituente, si voti anche lunedì, dice Alfano. Ora, perché la polemica? Perché si sa, se si vota 2 giorni c'è la possibilità di mandare al voto anche coloro che magari il primo giorno sono un po', cioè non i cosiddetti militanti, quelli che votano convinti. Sapete che c'è una grande sacca di astensionismo, ci sono persone che non ci tengono moltissimo ad andare a votare. E ovviamente, tenendo aperto 2 giorni, si dà la possibilità di uno che dice ma io il weekend non ci sono. Bene, il lunedì mattina, prima di andare a lavorare, puoi andare a votare. Allora, quelli che non tengono particolarmente al voto sono così più invogliati e invitati ad andare. Comunque staremo a vedere, c'è questa polemica che ci sarà anche sui 2 giorni. Le polemiche invece investono soprattutto il Movimento 5 Stelle. Non si placano dopo che il sindaco di Parma Pizzarotti è risultato indagato, ma dicono dal Movimento lo ha tenuto nascosto per 3 mesi, per questo è stato sospeso. Lui dice in realtà io scrivevo a loro e nessuno mi rispondeva da parte del direttorio e dello staff. Insomma, Movimento 5 Stelle, nuove crepe, Pizzarotti contrattacca, questo è il titolo del Corriere della Sera. Tra l'altro, scrive Repubblica, potrebbe, se espulso, addirittura far causa per tenersi il marchio Movimento 5 Stelle. Oggi replica in questo balletto che c'è di botte e risposta Luigi Di Maio, vicepresidente della Camera, intervistato dal Corriere della Sera, dice: io non ho il potere di decidere sospensioni, è Beppe il garante del Movimento. Dunque Beppe Grillo, chi mi accusa lo fa solo per visibilità. Comunque Pizzarotti ha diritto a presentare le sue controdeduzioni, speriamo possa dimostrare che non ci ha tenuto nascosto l'avviso di garanzia per 3 mesi. Questo Di Maio sul Corriere della Sera. Mentre il fedelissimo di Grillo Bugani, che è candidato a Bologna, sul Giorno attacca. Beh, lui è un nemico di Pizzarotti, ma lo dice, che i nostri rapporti siano pessimi, lo sanno anche le pietre. Comunque, lui ha negato, cioè ha mentito, perché non ha detto dell'avviso di garanzia. E dice Bugani: Casaleggio Junior ha il timone, Junior per carità, adesso mi massacreranno, Casaleggio Junior ha il timone, Beppe vuole essere invece un po' più libero. Anche Nogarin, sindaco di Livorno, intervistato al Corriere della Sera, anche lui ha un avviso di garanzia, ma dice Nogarin: io non ho rubato, non ho usato denaro pubblico per interessi personali, il mio avviso di garanzia è stato generato da un atto amministrativo, forse aver assunto 33 precari dell'azienda municipalizzata. Comunque, se mi rinviano a giudizio, mi dimetterò immediatamente. E riguardo a Pizzarotti, dice Nogarini, intervistato da Marco Gasperetti sul Corriere della Sera: lui non è sospeso per l'avviso di garanzia, ma per aver aspettato mesi prima di rendere noto il provvedimento. Mi spiace, ma non è stato trasparente. E invece la polemica investe anche lo stesso Beppe Grillo. Beppe Grillo, che in uno spettacolo a Padova, vabbè, lui è fatto così, fa le battute riguardo al sindaco di Londra, il nuovo Sadiq Khan, definito da lui bangladesciano, vabbè, invece di bengalese, peraltro è pakistano, vabbè, ma tralasciamo tutte queste cose, non è bangladesciano, non è neanche bengalese, ma è originario del Pakistan. Insomma, a un certo punto ha detto: tutti contenti, un successone, un trionfo di voti, voglio vedere poi quando si fa saltare per aria. Vabbè, battuta, ma chiaramente che gli vale l'accusa di razzismo, assalti, accuse. Beppe Grillo, vedrete se si fa saltare in aria. Vabbè, queste sono le amministrative. Le amministrative. Ma voi, cari ascoltatori, siete ricchi o poveri? Siete... So che subito mi dite, mi state pensando un epiteto di quelli che rivolgereste più volentieri a un Mauro Meazza, per esempio. Non è che... Mauro, buongiorno. Tu sei ricco o povero? Buongiorno. Io sono naturalmente ricchissimo in spirito, naturalmente. E sono così spirito. Ricco, anzi, devo fare ammenda. Mi hai chiesto che figura retorica è ascolta il silenzio. E tu ci hai pensato tutta la settimana. Tutto no, il fine no, settimana. Io ho chiesto a un esperto. Sì. Come sì. Nella tradizione ed del nostro giornale, è un paradossismo, che è una variante dell'ossimoro, sì, che è così definito nella tradizione retorica francese. Tutto ciò premesso, passo a leggere gli endecasillabi del lunedì. Ottimo. Penso di avere chiarito il dubbio che mi avevi posto. Paradossismo. Rinnovellato con disegno nuovo, è il Sol 24 Ore nel suo sito, di informazioni pieno come un uovo e in parole e numeri arricchito. Vedi, o navigator, le frecce all'arc per gli abbonati e per i gratuiti. Affiggi il suo indirizzo nei bookmark che il browser forse chiama preferiti. Poscia, non trascurare l'edizione che il fisco e le pensioni anch'oggi svela. Starà in edicola o nello tuo smartphone e anche l'esperto in allegato cela. Dolce il tuo lunedì sarà col sole a discettar di norme e di consumi, di sconti all'Imo, ma per i più son fole, e per chi fa start-up preziosi lumi. Or più non t'attardar, lettore amato, ma aumenta tua virtute e conoscenza, che tanto è ormai finito il campionato e alcuni dell'Europa faran senza. O forse no, una debole fiammella pel sabato mantieni scaramantico. Auguri tanti d'una partita bella, mentre b'incombe di declamarti. Traffico! Alessandro Milan, Fuji Suza, Konnichiwa, Dongija, dialetto sudcoreano. Beh, tutto chiaro, cari ascoltatori. Allora, c'è chi mi chiede se facciamo un bel libro, un bel ebook con le poesie del Meazzone. Chi lo sa, adesso proporremo al bar davanti a un bel caffè a Mauro Meazza questi endecasillabi in ebook. Allora, cari ascoltatori, notizie buone per gli statali. Questo almeno racconta il Messaggero a pagina 5. Gli aumenti in arrivo, ma attenzione, non per tutti. Gli aumenti in arrivo per gli stipendi più bassi. Il ministro Madia al lavoro sulle direttive per l'avvio del tavolo negoziale, 300 milioni da stanziare dal governo che non saranno distribuiti a pioggia, ma dopo quasi 7 anni di blocco la trattativa per il rinnovo del contratto degli statali sta per partire. Leggete l'articolo di Andrea Bassi a pagina 5 del Messaggero. Il ministro Madia sarebbe già al lavoro sulle direttive da parte dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale della pubblica amministrazione, l'ARAN, che siederà al tavolo coi sindacati. La prima decisione che sarebbe già stata maturata è questa. L'aumento della parte tabellare dello stipendio non ci sarà per tutti e 3 milioni di dipendenti pubblici. L'intenzione sarebbe quella di limitare gli aumenti solo ai redditi più bassi. Insomma, la falsariga di quanto fatto dal governo Renzi col bonus da 80 euro. Non è ancora chiaro, perché non sarebbe ancora stato deciso, se nella direttiva l'ARAN sarà indicata direttamente una soglia di reddito al di sotto della quale concedere l'aumento, oppure se questo aspetto sarà lasciato alla contrattazione coi sindacati. Comunque, arrivano, cari statali, 300 milioni, certo, distribuiti sui 3 milioni sarebbero una decina di euro al mese, distribuiti invece non a tutti potrebbe essere qualcosa di più per le fasce di reddito più basse per quel che riguarda gli statali. La notizia comunque c'è sul Messaggero. Mentre, sempre notizie economiche, sapete che Bruxelles deciderà in settimana sui conti pubblici italiani. È abbastanza certo, questa almeno è l'anticipazione dei giornali, che ci sarà una concessione alla cosiddetta flessibilità. Però c'è questo articolo di Federico Fubini a pagina 7 del Corriere della Sera e anche La Stampa con Marco Zatterin a pagina 7 raccontano quello che succederà poi, e cioè il vice ministro all'economia e alle finanze Enrico Morando ha già un'idea della legge di stabilità che aspetta il prossimo governo dopo il compromesso con l'Unione Europea. E sapete cosa ha detto della prossima legge di stabilità che arriverà a ottobre? Non sarà una passeggiata. Ora, secondo voi, cari cittadini, se un vice ministro all'economia dice non sarà una passeggiata la prossima legge di stabilità a ottobre, vi faccio un quiz da 0 euro. Che cosa vi aspetta e cosa ci aspetta da ottobre a tutti noi italiani nella prossima legge di stabilità? Beh, tenete a mente questa cifra. Secondo il Corriere della Sera serviranno 10 miliardi, 10 miliardini da trovare. Per il governo di Renzi sarà una giornata senza traumi a prima vista. L'esecutivo, guidato da Jean-Claude Juncker, è orientato a non proporre la procedura contro l'Italia. Ma, appunto, se si vede la decisione dell'Europa in prospettiva, in contropartita Bruxelles presenterà all'Italia alcune condizioni perché si confermi nei prossimi mesi la disponibilità a non aprire una procedura del Fiscal Compact. Il deficit l'anno prossimo dovrà scendere all'1,8% del reddito lordo. Ciò implica che in legge di stabilità a ottobre l'Italia presenti una correzione di bilancio da una decina di miliardi. Ora il governo deve decidere se e per quali obiettivi vale la pena di sfidare ancora più a fondo le regole dell'Unione Europea. Questi 10 miliardi come li troviamo? Si spera tagliando la spesa. Si temono, gli italiani temono sempre nuove tasse. Quando le temono tante volte, purtroppo ci azzeccano. Staremo a vedere. Intanto, cari italiani, c'è questa proposta del ministro alla salute Lorenzin, che per la verità è stata un po' smentita dal governo, che era quella di raddoppiare il bonus bebè. Per fare cosa? Per incentivare gli italiani a fare più figli. E questa altra questione che, vista in prospettiva, ci mette molto male tra 30, 40, 50 anni. Non facciamo più figli. Palazzo Chigi però dice ci sono anche altre proposte. Insomma, l'idea forte che ha diviso subito, quella di Beatrice Lorenzin di raddoppiare il bonus bebè per il primo figlio e farlo crescere anche di più dal secondo in poi, Palazzo Chigi però si è espresso, cioè il governo, dicendo che ci sono varie misure allo studio per cambiare il welfare. Questa è una di quelle. In realtà Maria Novella De Luca, pagina 3 di Repubblica, dice sono tante le proposte, congedi di maternità flessibili, bond per finanziare il welfare, permessi di paternità retribuiti, patti con le aziende affinché le lavoratrici madri non vengano demansionate, corsi di aggiornamento durante la gravidanza e poi misure per favorire l'autonomia dei giovani, investimenti sugli asili nido, fondi per la conciliazione tra famiglia e lavoro. Insomma, messa così come programma sembra una cosa per cui dovremmo tutti da oggi accoppiarci selvaggiamente per fare dei figli, perché arrivano risorse, ci piovono in testa i soldi, le risorse, le esenzioni. Sta di fatto che è tutto un programma che al momento rimane qui sulla carta. Repubblica però dedica l'apertura a pagina 2-3, come ha fatto ieri nel giornale del weekend, a dire succederà, non succederà, chi lo sa. Vi segnalo solo velocemente pagine interessanti sul Venezuela, una sulla Stampa, una sul Corriere della Sera, perché il Venezuela è in bancarotta e Maduro minaccia di espropriare gli industriali dove ci sono delle fabbriche improduttive considerate che lui vuole nazionalizzare, insomma il solito chavismo d'accatto che ha portato il Venezuela al disastro. E nuovamente sull'orlo del tracollo il Venezuela, purtroppo è una cosa che accade periodicamente. Ma vi segnalo queste due pagine. Ma siamo alla carta costa. Lo faccio vedere anche in diretta sulla mia pagina pubblica di Facebook. Siamo in diretta in questo momento. Arriva, come scrive il Fatto Quotidiano. Per la verità il Fatto Quotidiano lo scrive sotto la dicitura questo no. questo no. E infatti vince la carta costa la peridinner, l'ultima frontiera per il perenne bicchiere in mano. Ma non c'era già la pericena? E infatti Nanni Dal Becchi dice: non si capisce bene, è avvolta nel mistero la differenza tra la vecchia apericena e il nuovo aperidinner. Forse è solo una presa per i fondelli. Comunque arriva l'aperidinner. Ma chi se ne frega!